A bordo campo di Dario Ricci. We are champions, we're companions, and together we'll defeat. If we want it, we can have it. We are ready to compete. La Coppa del Mondo di Calcio è questa oggi la grande protagonista della puntata di A Bordo Campo, perché i mondiali del Brasile, è inutile nascondercelo, sono sempre più vicini con la loro bellezza, le loro contraddizioni, ormai se ne parla tutti i giorni, ma insomma il sacro graal del calcio mondiale insieme alla Champions League, insieme alla Coppa Libertadores è lei, la Coppa del Mondo di Calcio, tra l'altro disegnata da un italiano, quindi ci farebbe proprio piacere di portarla qui dalle nostre parti. In questi giorni la Coppa del Mondo è stata in Italia grazie al FIFA World Cup Trophy Tour promosso dalla Coca-Cola, e quella Coppa d'Oro, oggetto del desiderio di tutto il calcio mondiale, ha illuminato però anche delle zone nascoste del nostro calcio, non solo i palcoscenici della Serie A, ma anche dei campetti di periferia dove il gioco del pallone assume un significato sicuramente diverso e forse ritrova anzi il suo significato più originario. E allora oggi qui vi vogliamo portare con A Bordo Campo, in particolare in una periferia romana, nella borgata di Corviale, dove c'è una realtà che questo Trophy Tour ha illuminato in questi giorni, in cui il calcio diventa scuola, diventa cultura, diventa società, in una delle aree più difficili della capitale. Parliamo di calcio sociale, il progetto che è in campo nella borgata romana di Corviale. E allora, nostro ospite è il fondatore di Calcio Sociale, Massimo Vallati. Benvenuto Massimo A Bordo Campo e Radio 24. Grazie mille, buongiorno a tutti. E a far coppia con lui A Bordo Campo c'è Graziana Di Zonno, che di Calcio Sociale è una delle educatrici. Ben trovata Graziana. Grazie mille, buongiorno a tutti. Allora Massimo, Corviale e Calcio Sociale, una delle realtà più difficili di Roma, e un progetto che, come spesso accade, diventa prima sfida, poi sogno e poi realtà. Ecco, come nasce Calcio Sociale e cosa è? È un grande progetto educativo, e la cosa bella è che riesce a portare nelle periferie persone, abitanti, uomini e donne di tutti i quartieri di Roma, e quindi questo significa che tu riesci in questa maniera, con un progetto così vincente, a riqualificare la città, perché quel luogo diventa un luogo vivibile, un luogo bello, un luogo che attrae persone da tutti i quartieri di Roma. E quindi con il calcio sociale abbiamo voluto appunto cambiare le regole del calcio, ma è tutto un percorso a 360 gradi, dove si fanno dei percorsi sulla legalità, dei percorsi sulla spiritualità, sull'accoglienza, dei percorsi sulle tematiche ambientali e civili del nostro paese. Si fa uno studio assistito con i giovani più piccoli, sempre perché per noi è fondamentale la cultura e lo studio, conoscere per deliberare. Il calcio sociale è veramente un percorso, una grande Macedonia esplosiva di cultura, democrazia e socialità. Beh, insomma, citi la Macedonia, ma allora io ti cito la vendemmia, la conserva dei pomodori, il prendersi cura della natura, perché nell'ambito di calcio sociale fate anche questo. Graziana Di Zonno, come fate a mettere insieme vendemmia, conserva di pomodori e formazione? Anche perché qua comincia a venirmi anche un po' d'appetito. Questa è un po' l'originalità, insomma, di questo progetto, perché noi vediamo il calcio, diciamo, non solo come uno sport o come uno spazio di divertimento per i ragazzi, ma è proprio il pretesto per iniziare un progetto di comunità, di educazione. E qui colleghiamo una serie di attività, diciamo, lo scopo è quello di rivivere insieme questo sport, seguendo anche i principi dell'accoglienza, dello stare insieme. E si fanno una serie di attività, quindi col pretesto di giocare insieme, che sono in autunno, abbiamo anche accettato questa sfida di fare il vino, quindi siamo gettati nelle campagne romane, abbiamo raccolto uva, abbiamo pigiato l'uva, abbiamo fatto il vino, abbiamo fatto la salsa, questo per trasmettere anche tutta un'altra serie di valori, che sono anche il rispetto della natura o l'attenzione verso la diversità, verso gli altri. Non a caso uno dei motti più importanti di calcio sociale è vince chi custodisce, perché come diceva Massimo, il calcio sociale per la prima volta è nato a Roma, si svolge a Roma in questo quartiere conosciuto più per cronache negative che positive, però diventa un luogo di bellezza, quindi noi ci teniamo tantissimo che i ragazzi imparino a custodire il luogo, a creare qualcosa di bello. E iniziamo col calcio, iniziamo giocando su un campo di calcio, però poi queste regole cerchiamo di trasmettere fuori e di farle diventare regole di vita. Ecco, Graziana, come vi integrate con la vostra attività, magari con le scuole del quartiere? Ecco, con le scuole è importantissimo interagire, non a caso anche l'iniziativa di FIFA World Cup Trophy Tour ci ha dato questa bellissima opportunità di accogliere la coppa e di festeggiare insieme ai ragazzi delle scuole, è quello di interagire con loro, cioè di partire prima di tutto dai ragazzi. E noi li abbiamo invitati a questo mega evento, con loro abbiamo organizzato delle attività di gioco, abbiamo discusso delle regole di calcio sociale, di come è strutturato, di cosa significa. L'abbiamo improntato appunto sull'accoglienza, sul rispetto, insieme a tutti i ragazzi, cioè non c'è distinzione tra ragazzi magari con disabilità o ragazzi con culture diverse. Roma ormai è una città multietnica, quindi non ci devono essere barriere, e partiamo prima di tutto dalle scuole. Massimo Vallati, il calcio come strumento, ma comunque a calcio si gioca, ecco, siete voi che fate? Create delle formazioni, le fate partecipare ai tornei delle varie categorie, oppure la partita è veramente esclusivamente un pretesto in quest'ottica? No, ma c'è proprio un campionato di calcio sociale con le sue regole. Noi abbiamo discusso, come dicevo prima, le regole del calcio per discutere le regole del mondo. Ecco, dici un po' quali sono le regole base del vostro campionato, ecco. Le regole base, la prima, per esempio, e già si capisce in che direzione andiamo, è la formazione delle squadre, come tu dicevi. Appunto, le squadre del calcio sociale come si fanno? Prima di incominciare il campionato si fanno delle amichevoli e si dà un coefficiente tecnico ad ogni giocatore in base alla sua bravura, da 1 a 10. E poi si fa un sorteggio e ogni squadra ha il suo coefficiente, quindi il 10 che magari è un piccolo Totti che stava nelle giovanili della Roma e della Lazio, e l'1 magari è un ragazzo in difficoltà, un ragazzo che non ha mai giocato, magari con qualche piccola difficoltà fisica o psichica. E poi si sta tutti quanti insieme. Quindi ogni squadra ha le stesse possibilità di poter vincere il campionato, e quindi a differenza del campionato italiano, ma i campionati spagnoli di tutta Europa, dove ci sono sempre 2 o 3 squadre, in Italia Inter, Milan e Juve, in Spagna il Barcellona e il Madrid, che vincono sempre gli scudetti, nel calcio sociale tutti possono vincere. E quindi già dalla prima regola capisci che l'orizzonte è attualmente verso l'uguaglianza, verso la giustizia, verso la democrazia. Qual è la risposta che arriva dai ragazzi, Massimo, e soprattutto dalle loro famiglie? Perché con Graziana sottolineavamo come ormai le nostre metropoli siano città multietniche. Ecco, questo canovaccio, questo discorso riesce a essere linguaggio comune. Quali sono invece le difficoltà principali che soprattutto all'inizio di questo percorso immagino vi trovate ad affrontare? Allora, con i bambini piccoli va benissimo, perché i bambini piccoli crescono in questo clima, vedono queste regole, respirano questo contorno, e quindi per loro il calcio è il calcio sociale, un calcio dove c'è una giustizia, una ricerca veramente del custodire, come diceva Graziana, custodire questi valori di giustizia e di uguaglianza. E la difficoltà ce l'hanno, quindi il lavoro grosso degli educatori è con le persone più grandi, con le persone di 30, 40, 50 anni che magari hanno fatto tornei dove l'agonismo è esasperato, dove c'è sempre la voglia di prevalere, la voglia di vincere, e allora all'inizio si trovano in grande difficoltà, ma dopo col tempo pian piano entrano in un clima, entrano in un percorso, e allora si rendono conto di quello che si erano persi prima. Graziana, tu che come educatrice sei a stretto contatto, forse ancora più di Massimo, con la realtà quotidiana di tutti i giorni di calcio sociale, un'immagine, un episodio che in qualche modo secondo te sintetizza questa esperienza? L'ultimo più recente che un po' mi ha colpito, insomma, nella mia squadra, perché io è anche un po' bizzarro che una ragazza adesso parli di calcio, parli delle regole di calcio, però questo è il bello di calcio sociale. Cioè, non c'è quindi distinzione. Anche tu sei calciatrice? Esattamente. Che ruolo giochi? Perché, allora, io gioco sull'ala destra. Ah, bene. È un ruolo anche abbastanza impegnativo, bisogna correre un po' su e giù per il campo. Anche una certa Però fantasia ci vuole, insomma, no? L'educatore è giocatore, è essenziale, cioè ha un ruolo importante perché non c'è un arbitro, quindi è importante riconoscere anche i propri falli. Quindi l'educatore è anche la persona di riferimento nella squadra, deve essere attento anche alle relazioni, deve curare le relazioni tra i vari partecipanti. Mi colpiva molto un ragazzo, e ci sono anche ragazzi che hanno problemi giudiziari, quindi vivono in comunità. Noi ci scambiamo tantissime email durante la settimana, quindi anche per motivarci, insomma per accompagnarci durante la settimana. E questo ragazzo non rispondeva mai all'email. Alla fine ho scoperto che semplicemente non sapeva aprire la posta, non sapeva controllare l'email. Quindi, ed è un ragazzo 15 anni, insomma, 2014, uno trova anche bizzarro pensare che qualcuno non sappia aprire la posta. Quindi bastava semplicemente mostrare come aprire una casella di posta e quindi adesso c'è un maggiore coinvolgimento di tutti. Beh, Massimo Vallati, direi che questo è lo stato dell'arte, lo stato presente, ma qual è il prossimo passo, qual è il futuro di calcio sociale? Il futuro di calcio sociale è portare il calcio sociale in tutto il mondo. E il Trophy Tour Coca-Cola è veramente un segnale che sta partendo una partnership che speriamo che sia feconda, e noi vogliamo assolutamente portare questo progetto che dovunque è partito è al di là di Roma, quindi qualcuno poteva dire è legato alla leadership dei suoi fondatori, e invece no, dovunque è partito sta facendo bene a tanta gente, e quindi questa è la cosa più importante per noi. Beh, allora un grande in bocca al lupo a Calcio Sociale, con l'augurio davvero di fare tanti di questi gol, e un grazie davvero speciale a Graziana Di Zonno, educatrice di Calcio Sociale. Grazie a voi. Grazie a Massimo Vallati, che di Calcio Sociale è l'ideatore e il fondatore. Grazie, Graziana e Massimo, grazie per voi, essere stati i nostri ospiti. A bordo campo. Uruguay, Costa Rica e Inghilterra. Saranno queste le avversarie dell'Italia nella Coppa del Mondo 2014. Questo è l'esito del sorteggio che si è tenuto a Costa do Sauipe, nello stato di Bahia, in Brasile. L'Italia farà il suo esordio nella notte tra il 14 e il 15 giugno all'Arena d'Amazonia di Manaus contro l'Inghilterra. Il 20 giugno sfida alla Costa Rica all'Arena Pernambuco di Recife alle 18 ora italiana. E sempre alle 18 si disputerà il match con l'Uruguay, in programma il 24 giugno all'Arena das Dunas di Natal. Lo avete capito? Beh, oggi amici di A Bordo Campo, la grande protagonista di questa puntata è la Coppa del Mondo di Calcio. Brasile 2014 è sempre più vicino, e oggi noi A Bordo Campo ci vogliamo un po' divertire a giocare il primo turno del Mondiale brasiliano, quel girone terribile, quel girone di ferro che aspetta gli azzurri di Prandelli, giocarlo in anticipo, e dove? Su un campo del tutto particolare, cioè su quello dei social network. Parliamo di Twitter, di Facebook, di come le nostre avversarie mondiali comunicheranno via social network. E allora, inevitabile che sia nostro ospite oggi un amico di A Bordo Campo e di Radio 24, Andrea Barchiesi. Ben ritrovato, Andrea. Grazie, buon pomeriggio. Andrea Barchiesi, amministratore delegato di Reputation Manager, la società che studia la reputazione online, che tutti noi, VIP compresi e realtà virtuali comprese, come possono anche essere le federazioni di calcio, si costruiscono online. Beh, allora Andrea, da appassionato di calcio ti chiedo subito, al di fuori dei social network, come vedi questo primo turno dell'Italia che dovrà affrontare Inghilterra, Uruguay con Cavani e Suarez e poi il Costa Rica? Beh, certo abbiamo dei cattivi clienti, soprattutto nell'Inghilterra. Detto questo, forse ce la caviamo un po' meglio nei social network. Ecco, speriamo almeno di partire con questo gol di vantaggio. Andiamo con ordine, perché la nostra prima avversaria sarà l'Inghilterra a Manaus. Direi che gli inventori del football sono anche gli inventori di quello che di fatto è il primo regolamento gestionale dei social network per i calciatori convocati in nazionale. Sappiamo bene che Prandelli ci sta pensando, ha capito l'entità del problema, forse ispirato anche dai tweet di Mario Balotelli, e gli inglesi direi da questo punto di vista sono avanti, no Andrea? Sono molto più avanti di noi, infatti sono stati i primi a declinare un regolamento adeguato. Dal nostro punto di vista invece abbiamo detto non comunicate, perché potrebbe essere pericoloso. Per quanto riguarda invece la Federcalcio inglese, quali sono i punti centrali del loro regolamento? Cosa potranno fare e non fare i calciatori convocati a Brasile 2014 via social network? Ci sono delle cose molto interessanti. Anzitutto sono molto attenti al mondo dei minori. Non devono avere alcuna interazione con i minori, per cui di nessun tipo, né di chat, né di acquisizione dati e così via. E questo denota una grande sensibilità. Poi delle impostazioni della privacy che sono condivise. Di conseguenza, quindi, un rapporto etico-sociale molto interessante. Ecco, il rapporto con i club, perché chiaramente ogni calciatore proviene dai club, Manchester United, Liverpool, chi più ne ha più ne metta. Durante quel periodo online come potranno gestire questo legame? Perché in quel momento si è giocatori della nazionale e della federazione. Certo, allora lì sicuramente si possono comunicare gli aggiornamenti sull'attività del club, di conseguenza quindi è un terreno molto complicato, perché bisogna gestire effettivamente il doppio ruolo che ogni giocatore ha in questa fase. Ci sono professionisti già individuati ad hoc da parte della Federcalcio inglese o più in generale anche da parte dei club per gestire questo aspetto particolare della relazione tra campioni e tifosi e soprattutto della costruzione dell'immagine dei campioni? Allora, sicuramente la nascita di questo regolamento denota una cultura avanzata, quindi potrebbero esserci localmente dei professionisti che si occupano proprio della gestione della loro immagine. Per quanto riguarda invece i blog, i nostri rivali inglesi, come potranno comportarsi? Perché chiaramente ci saranno comunicazioni ufficiali gestite attraverso i canali della Federcalcio, attraverso quelli dei club, ma poi ogni calciatore, tutto sommato i più importanti, hanno i loro blog. Potranno essere utilizzati o no durante i mondiali e se sì come? Potranno essere utilizzati, ma devono fare molta attenzione a seguire le regole macro e soprattutto le linee dettate di comunicazione dalla federazione. Su questo quindi necessita anche di una sorta di arbitro. Potrebbero prendere un cartellino giallo mediatico. Mi viene in mente che ad esempio il cartellino giallo potrebbe scattare se uno si facesse la foto con la propria maglietta dello sponsor personale e non dello sponsor federale, in campo d'abbigliamento ad esempio. Assolutamente sì, questi purtroppo sono momenti, come dicevamo, in cui i due profili tendono a confondersi, ma il palco mediatico è della nazionale. Sì, mi viene in mente a livello di club quella che ha fatto già storia, la presentazione di Mario Götze al Bayern Monaco, e lui si presentò con una maglietta griffata con un celebre baffo. Peccato che lo sponsor tecnico del Bayern Monaco abbia tre strisce in diagonale e non la prese benissimo. Senti, quindi insomma, rispetto a noi gli inglesi nella gestione del fenomeno social, diciamo, stanno già 1-0, no? Eh sì, purtroppo abbiamo preso 1-0 anche dal punto di vista dei numeri, che dal punto di vista Facebook hanno 3 milioni di fan contro 1,5 milioni in Italia. Come fan attivi però siamo più caldi, nel senso hanno solo 9.000 fan attivi e noi 11.000. Quindi ecco, spiegaci un po' questo profilo, fan attivi in che senso? Che cosa vuol dire? Nel senso che il numero di fan è un'indicazione ormai limitativa, nel senso che contano semplicemente le persone che hanno dato l'adesione con la pagina. L'attività invece sono coloro che hanno un'azione vera, quindi diciamo che sono quelli che nello stadio hanno il coro. Diciamo certo, così. Insomma, quelli che si iscrivono al profilo ma poi sono appunto attivi, scrivono, dialogano, sono delle presenze su cui puoi sempre contare, insomma. Assolutamente, diciamo quindi che siamo un po' più focosi. Insomma, un po' più latini. A proposito di latini, andiamo al nostro secondo avversario, l'Uruguay di Edinson Cavani. Dal punto di vista social, direi un Uruguay che è più attivo su Twitter che su Facebook, è vero? Assolutamente, e questo è un dato abbastanza in controtendenza. Ecco, come mai questa maggiore attività? Di solito le federazioni hanno comunicazioni magari più complesse, quindi Facebook si presterebbe di più, no? Lo usano più come se fosse un ufficio stampa, quindi comunicati short e informazioni molto veloci. Quindi insomma tipo agenzia di stampa, intanto te la metto lì su Twitter e poi hai il link e poi te lo apri e vai ad approfondire, insomma. Ed effettivamente hanno un'attività molto alta perché hanno pubblicato 10.000 tweet. Ah, quindi è assolutamente sempre con l'iPhone in mano, diciamo, l'ha detto stampa dell'Uruguay. Assieme al suo staff e a tutti i tifosi, sì. Ecco, per una federazione come quella uruguayana, che è sicuramente di grande tradizione, ma diciamo chiaramente con numeri più contenuti delle grandi big mondiali, uno staff ad hoc, quali figure dovrebbe prevedere? Ma fondamentalmente dovrebbe prevedere, diciamo, una sorta di ufficio stampa digitale e due persone che facciano un po' da collante con i vari interlocutori e i vari player. Ecco, dal punto di vista regolamentare, l'Uruguay non ha sui siti ufficiali, sul suo sito ufficiale, sul suo profilo ufficiale, pubblicato un regolamento vero e proprio ancora per i giocatori, vero? No, non ce l'ha. Ecco, ed è in fase di studio da quello che vedo. Sembra in fase di studio, ma su questo anche l'Italia dovrebbe dotarsi, soprattutto in vista dei mondiali, dovremmo dare un qualcosa di livello come il livello dell'Italia. Parlando sempre dei nostri avversari latini, eccoci arrivati al Costa Rica, no? Un po' l'oggetto misterioso del nostro girone e quindi forse per alcuni aspetti anche l'avversario più pericoloso. Costa Rica che rispetto all'Uruguay è invece più attivo su Facebook, no? Se non sbaglio. Sì, assolutamente sì. Hanno qualcosa come 33.000 fan contro 10.000 follower. Si parla sempre di numeri molto bassi rispetto al 1.5 milioni di fan dell'Italia. Quindi, insomma, tutto sommato, sì, si scrivono su Twitter e su Facebook, ma si potrebbero quasi ritrovare, non dico al bar, ma in uno stadio, insomma. Diciamo di sì, ma sono molto attivi, nel senso hanno 2.000 fan attivi contro gli 11.000 degli italiani, ma ricordiamo che il rapporto è 1.5 milioni a 33.000, quindi sono assolutamente attivissimi, pochi ma attivissimi. Quindi una torcida costaricana decisamente vivace dal punto di vista dei social network. Senti, a me ha stupito questo dato straordinario, perché abbiamo detto il Costa Rica usano più Facebook che Twitter e è testimoniato da una cosa clamorosa. Perché? Perché la federazione del Costa Rica ha creato quest'hashtag via Twitter, chiaramente hashtag cancelletto al mundial vamos todos. Ecco quante persone lo hanno usato. Ma praticamente neanche loro, quindi non si può proprio parlare di todos. Quindi insomma praticamente la federazione del Costa Rica ha creato quest'hashtag al mundial vamos todos e nessuno, neanche loro, l'hanno ancora usato. Un classico problema di mancanza di coordinazione. Eh sì, qualcuno, diciamo, magari nell'ultimo orario buono del suo turno di lavoro ha fatto il suo compitino, ma gli altri ancora non se ne sono resi conti. Quindi direi che primo compito assolutamente twittare qualcosa con questo hashtag, ve lo ricordo. Assolutamente sì, anche perché sono sotto gli occhi di tutto il mondo, lo testimonia il fatto che adesso stiamo un po' sorridendo di questo in Italia. Eh sì, assolutamente, tant'è che appunto cancelletto al Mundial vamos todos. Allora, Andrea Barchesi, io prima di salutarti già ho in mano il mio BlackBerry e vado su Twitter e scrivo subito qualcosa attaccandomi all'hashtag del Costa Rica. Da qui al Mondiale, Andrea, chi lo vincerà il social mondiale, almeno in questo difficilissimo girone che ci aspetta? Io spero che l'Italia possa vincerlo sia sul campo che sui social e recuperi un po' il gap che ha accumulato. Andrea Barchesi, amministratore delegato di Reputation Manager, grazie per aver già giocato con noi il primo turno dei Brasile 2014. Beh, ti aspettiamo allora prestissimo per giocare anche qualche altra partita online qui a bordo campo. Grazie. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, anche da lì scaricare il nostro podcast, dialogare con A Bordo Campo attraverso il blog della trasmissione e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.